Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Hon! Hon Taien! Un'altra vittoria! È bene questo! Qual è il meglio della vita? La steppa immensa! Un veloce cavallo! Falchi sul tuo polso! E il vento che ti stordisce! No! Conan! Qual è il meglio della vita? Schiacciare i nemici, inseguirli mentre fuggono e ascoltare i lamenti delle femmine. Questo è bene! Gli intrusi a palazzo. Uno ammazzato, uno scappato, uno dorme in un letto dorato. Antica ballata. Durante una festa di corte, Nabonidus, il prete rosso, che era il vero sovrano della città, toccò cortesemente il braccio del giovane aristocratico Murilo, il quale si voltò e, incontrando lo sguardo del prete, si chiede stupito che cosa celassero quegli occhi enigmatici. Nessuna parola fu scambiata tra i due, ma Nabonidus si chinò e porse a Murilo un piccolo cofanetto d'oro. Il giovane nobile, sapendo che Nabonidus non faceva nulla senza ragione, approfittò della prima occasione per ritornare frettolosamente nella sua camera. Qui aprì il cofanetto e vi trovò un orecchio umano che riconobbe grazie a una particolare cicatrice che lo sfregiava. Fu colto da sudore freddo e non ebbe più dubbi sul significato celato nell'occhiata del prete rosso. Ma Murilo, nonostante i suoi neri riccioli profumati e l'abbigliamento frivolo, non era un debole, tale da porgere il collo alla lama senza combattere. Non sapeva se Nabonidus stava semplicemente giocando con lui o se gli stava fornendo la possibilità di andarsene volontariamente in esilio, ma il fatto di essere ancora vivo in libertà provava che gli restava almeno qualche ora, per meditare, forse. Tuttavia non gli serviva nessuna meditazione per prendere una decisione. Quello che gli serviva era uno strumento. E il fato glielo fornì, operando tra le taverne e i bordelli dei quartieri più malfamati, mentre il giovane nobile tremava e rifletteva in quella parte della città che era occupata dalle purpuree torri di marmo e dai palazzi di avorio dell'aristocrazia. C'era un prete di Anu, il cui tempio, innalzato ai limiti dei quartieri malfamati, era teatro di qualcosa di più delle pratiche devote. Il prete era grasso e ben pasciuto e faceva contemporaneamente il ricettatore di oggetti rubati e il confidente della polizia. Ambedue i commerci erano fiorenti, perché il quartiere con il quale confinava era il labirinto, un groviglio di tortuosi vicoli pieni di fango e di sordide taverne frequentate dai ladri più sfrontati del regno. I più temerari erano un gunderiano, disertore delle armate mercenarie, e un barbaro cimmero. Per colpa del prete di Anu, il gunderiano era stato acciuffato e impiccato nella piazza del mercato, ma il cimmero era riuscito a fuggire e, saputo per vie traverse del tradimento del prete, nottetempo era entrato nel tempio di Anu e gli aveva tagliato la testa. Seguì un grande scompiglio nella città, ma la ricerca dell'assassino non diede i suoi frutti, fino a che una donna non tradì il cimmero, conducendo un capitano delle guardie e il suo drappello nel nascondiglio dove il barbaro giaceva ubriaco. Svegliandosi stupefatto ma inferocito mentre lo acciuffavano, sbudellò il capitano, irruppe tra gli assalitori e sarebbe riuscito a fuggire se non fosse stato per il liquore che gli ottundeva i sensi. Confuso e mezzo cieco, mancò la porta spalancata verso cui si era buttato a capofitto e sbatté la testa contro il muro di pietra, così forte che il colpo lo lasciò privo di sensi. Quando rinvenne, si ritrovò nella cella più sicura della città legato al muro con catene così robuste che nemmeno i suoi muscoli di barbaro avrebbero potuto spezzarle. Nella cella arrivò Murilo, mascherato e avvolto in un ampio mantello nero. Il cimmero lo esaminò con interesse, pensando che fosse il boia che lo avrebbe mandato all'altro mondo. Murilo gli si pose a lato e lo guardò con interesse non minore. Persino la debole luce del sotterraneo e con le membra appesantite dalle catene, la forza primitiva dell'uomo era evidente. Nel corpo possente e nelle membra muscolose si combinavano la forza di un orso e la velocità di una pantera. Sotto la nera criniera arruffata, gli occhi azzurri brillavano di un'inestinguibile barbarie. «Ti piacerebbe vivere?» chiese Murilo. Il barbaro grugnì e un nuovo interesse si riaccese nei suoi occhi. «Se preparo la tua fuga, mi farai un favore?» chiese l'aristocratico. Il cimmero non parlò, ma il suo sguardo rispose per lui. «Voglio che tu uccida un uomo». «Chi?» La voce di Murilo si ridusse a un bisbiglio. «Nabonidus, il prete del re». Il cimmero non mostrò alcun segno di sorpresa o di turbamento. Non aveva né la paura né la reverenza per l'autorità che la civiltà instilla negli uomini. Re o mendicanti erano uguali per lui. Non chiese nemmeno a Murilo perché fosse venuto proprio da lui, dato che i quartieri pullulavano di tagliagole liberi. «Quando fuggirò?» chiese. «Entro un'ora. C'è solo una guardia durante la notte in questa parte della prigione. Può essere corrotta. È stata corrotta. Guarda, qui ci sono le chiavi delle catene. Le aprirò e un'ora dopo che sarò andato via, la guardia Atticus aprirà la porta della tua cella. Lo legherai con le strisce della sua tunica. Così quando lo troveranno, le autorità penseranno che tu sia stato aiutato dall'esterno e non sospetteranno di lui. Vai subito dal prete rosso e uccidilo. Poi dirigiti alla taverna del topo. Lì incontrerai un uomo che ti darà una borsa d'oro e un cavallo. Ti serviranno per lasciare la città e abbandonare il paese». «Toglimi queste maledette catene allora», chiese il cimmero. «E di alla guardia di portarmi da mangiare. Per Crom, sono vissuto di pane ammuffito e acqua per un giorno intero e sto quasi per morire di fame». «Ma ricorda, non devi scappare fino a che io non abbia raggiunto la mia casa». Liberato dalle catene, il barbaro si alzò in piedi e stirò le forti braccia, enormi nell'oscurità della cella. Murilo si convinse di nuovo che se mai un uomo al mondo poteva riuscire a portare a termine il suo piano, quello era il cimmero. Dopo aver ripetuto qualche istruzione, lasciò la prigione, ordinando prima ad Atticus di portare al prigioniero un vassoio con carne e birra. Sapeva di potersi fidare della guardia, non solo per il denaro che le aveva dato, ma anche perché era in possesso di certe informazioni che la riguardavano. Quando fu di ritorno nella sua camera, Murilo aveva riacquistato il pieno controllo delle sue paure. Nabonidus lo avrebbe colpito attraverso il re, di questo era sicuro. E sino a quando la guardia reale non avesse bussato alla sua porta, sarebbe potuto star certo che il prete non aveva ancora detto nulla al re. Domani Nabonidus avrebbe parlato senza dubbio, se Nabonidus fosse vissuto fino a domani. Murilo era convinto che il cimmero avrebbe tenuto fede alla parola data. Rimaneva da vedere se sarebbe riuscito nel suo proposito. Alcuni avevano già tentato di assassinare il prete rosso, ma erano morti misteriosamente, non si sa in che modo. Ma quelli erano il prodotto delle città degli uomini, sprovvisti degli istinti da lupo del barbaro. Nell'istante in cui Murilo, con il cofanetto d'oro e l'orecchio mozzato nelle mani, era venuto a sapere attraverso i suoi canali segreti che il cimmero era stato catturato, aveva capito di aver trovato la soluzione del suo problema. Ritornato nella sua camera, levò un brindisi all'uomo, il cui nome era Conan, e al successo di quella notte. Mentre stava bevendo, una delle sue spie gli portò la notizia che Atticus era stato arrestato e gettato in prigione. Il cimmero non era fuggito. Murilo si sentì il sangue farglisi nuovamente di ghiaccio. In questo voltafaccia del fato poteva vedere la torva mano di Nabonidus e fu colto dalla paurosa ossessione che il prete rosso fosse più che umano, fosse un mago che poteva leggere nella mente delle sue vittime e muovere i fili che le facevano ballare come pupazzi. Morta l'ultima speranza, fu colto dalla disperazione. Cinta una spada sotto il mantello nero, lasciò la casa attraverso un passaggio segreto e si affrettò lungo le strade deserte. Era mezzanotte precisa quando arrivò alla casa di Nabonidus, che si stagliava nera tra i giardini circondati di mura che la separavano dalle proprietà adiacenti. Il muro era alto, ma non impossibile da superare. Nabonidus non riponeva la sua fiducia solo nelle semplici barriere di pietra. Ciò che stava oltre il muro era assai più temibile. Che cosa fosse, Murilo non lo sapeva esattamente. Sapeva soltanto che c'era un enorme cane selvaggio che sorvegliava i giardini e che avrebbe ridotto a pezzi un intruso come un bracco fa con un coniglio. Ma non si preoccupò di fare congetture su ciò che poteva esserci ancora. La gente che era potuta entrare nella casa per qualche breve e legittimo affare aveva riferito che Nabonidus si circondava di un arredamento semplice ma ricco ed era servito da un numero sorprendente piccolo di servitori. Per la verità ne menzionavano uno solo, quello che avevano scorto, un uomo alto e silenzioso che si chiamava Gioca. Qualcun altro, presumibilmente uno schiavo, era stato udito muoversi nei recessi della casa, ma nessuno lo aveva mai visto. Il più grande enigma di quella misteriosa casa era Nabonidus stesso, che con gli intrighi e la sua abilità nella politica internazionale era divenuto uno degli uomini più potenti del regno. Il popolo, il cancelliere e il re erano mossi come pupazzi dai fili che lui teneva. Murilo scalò il muro e si calò nei giardini. Una distesa di ombra, oscurata da gruppi di cespugli e dal fogliame ondeggiante. Nessuna luce brillava alle finestre della casa che si stagliava nera tra gli alberi. Si aspettava di udire da un momento all'altro l'abbaiare del cagnaccio e di vederne il corpo gigantesco scagliarsi attraverso i cespugli. Dubitava che la spada potesse essere utile contro un tale attacco, ma non esitò. Morire tra le zanne di una bestia o sotto l'ascia del carnefice era lo stesso. Incespicò in qualcosa di grosso e cedevole. Curvandosi, riuscì a distinguere al chiaro di luna una forma molliccia. Era il cane che sorvegliava i giardini ed era morto. Il collo dell'animale era rotto e portava i segni di enormi zanne. Murilo si rese conto che nessun essere umano avrebbe potuto lasciare quei segni. La bestia aveva incontrato un mostro più selvaggio di lei. Murilo fissò nervosamente l'enigmatica massa dei cespugli. Poi, con un'alzata di spalle, si avvicinò alla casa silenziosa. La prima porta che spinse non era chiusa a chiave. Entrò cautamente con la spada in mano e si ritrovò in un vestibolo debolmente illuminato da una luce che traspariva dai tendaggi sull'altro lato. Un silenzio assoluto pesava su tutta la casa. Murilo scivolò lungo il corridoio e si fermò a scrutare dietro i tendaggi. Vide una stanza illuminata con le finestre schermate da cortine di velluto così accuratamente tirate da non lasciare passare neppure un raggio di luce. La stanza era vuota di vita, ma aveva tuttavia un macabro occupante. Tra frammenti di mobili e i tendaggi strappati che rivelavano una paurosa lotta, giaceva il corpo di un uomo. La figura era girata sul ventre, ma la testa era stata torta con così grande violenza che il mento riposava dietro una spalla. I lineamenti, contorti in una smorfia spaventosa, sembravano guardare biecamente l'atterrito aristocratico. Per la prima volta in quella notte, la risolutezza di Murilo vacillò. Gettò un'occhiata incerta dietro di sé. Poi il pensiero del ceppo e della scura del carnefice gli diede coraggio. Attraversò la stanza, deviando per evitare l'orrore che giaceva scompostamente al centro. Sebbene non avesse mai visto prima quell'uomo, capì dalle descrizioni che si trattava di Gioca, il servitore di Nabonidus. Dalle tende di una porta scrutò entro un'ampia camera circolare sulla cui parete correva una galleria a metà strada tra il lucido pavimento e l'alto soffitto. Era arredata in modo regale. Al centro stava un elaborato tavolo di mogano apparecchiato con vasi da vino e ricche bevande. Murilo si irrigidì. In un grande seggio, il cui ampio schienale era rivolto verso di lui, vide una figura che indossava un abito che gli era familiare. Intravide un braccio ricoperto da una manica rossa, poggiato su un bracciolo della sedia. La testa, ricoperta dal noto cappuccio scarlatto della toga, era china in avanti, come se fosse assorta in meditazione. Murilo aveva visto Nabonidus seduto a quel modo centinaia di volte alla corte reale. Maledicendo il battito del suo cuore, il giovane aristocratico si mosse furtivamente nella stanza con la spada sguainata e con tutto il corpo teso per vibrare il colpo. La vittima non si mosse, non sembrò neppure udire la sua cauta avanzata. Dormiva, oppure era un cadavere ciò che c'era sulla grande sedia. Un solo passo separava ormai Murilo dal suo nemico. Quando improvvisamente l'uomo seduto si alzò e lo fronteggiò. Il sangue abbandonò immediatamente i lineamenti di Murilo, la spada gli cadde dalle mani e tintinnò sul lucido pavimento. Un urlo terribile ruppe dalle sue labbra e fu seguito dal tonfo di un corpo che cade. Poi, ancora una volta, il silenzio regnò nella casa del prete rosso. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Subito dopo che Murilo ebbe lasciato la cella dove Conan il Cimmero era confinato, Atticus portò al prigioniero un vassoio di cibo che conteneva, tra le altre cose, un grosso trancio di bue e un boccale di birra. Conan vi si avventò voracemente e Atticus fece un'ultima ronda per le celle per accertarsi che tutto fosse in ordine e che nessuno potesse spiare la pretesa evasione. Mentre era così occupato, una squadra di guardie marciò sulla prigione e lo mise agli arresti. Murilo si era sbagliato pensando che quanto era accaduto dimostrasse che il piano di fuga di Conan era stato scoperto. Era un'altra faccenda. Atticus era diventato troppo imprudente nei suoi maneggi con la malavita e una delle colpe del passato era venuta a galla. Al suo posto arrivò un altro carceriere, una creatura stolida e fidata che nessuna corruzione avrebbe distolto dal suo dovere. Era privo di immaginazione, ma aveva un concetto elevato dell'importanza del suo lavoro. Dopo che Atticus fu allontanato per essere sottoposto al giudizio davanti a un magistrato, il nuovo carceriere fece il rituale giro delle celle. Passando di fronte a quella di Conan, il suo senso estetico fu scandalizzato e oltraggiato nel vedere il prigioniero, libero dalle catene, in atto di rosicchiare gli ultimi brandelli di carne da un immenso osso bovino. Il carceriere era così sconvolto che fece l'errore di entrare nella cella da solo, senza chiamare le guardie che stavano nelle altre parti della prigione. Fu il primo errore nello svolgimento delle sue mansioni, e anche l'ultimo. Conan gli spaccò la testa con l'osso di bue, afferrò il pugnale e le chiavi e prese comodamente commiato. Come aveva detto Murilo, durante la notte era di turno una sola guardia. Il Cimmero uscì servendosi delle chiavi ed emerse all'aria aperta, libero, come se il piano di Murilo per farlo evadere fosse riuscito. All'ombra dei muri della prigione, Conan si fermò per decidere la sua prossima linea di condotta. Dato che era fuggito di cella da solo, non aveva debiti verso Murilo, ma era anche vero che se il giovane nobile non gli avesse tolto le catene e non gli avesse fatto mandare del cibo, la sua fuga sarebbe stata impossibile. Conan si convinse che doveva qualcosa a Murilo e, dato che era un uomo che pagava sempre i suoi debiti d'onore, decise che avrebbe mantenuto la promessa fatta al giovane aristocratico. Ma prima aveva qualcosa di personale da fare. Si liberò dalla tunica stracciata e si mosse nella notte vestito solo della fascia sui fianchi. E mentre camminava, stringeva tra le dita il pugnale che aveva rubato, un'arma mortale lunga più di due spanne, con un'ampia lama a doppio filo. Sgattaiolò lungo i vicoli e piazze oscure, fino ad arrivare al quartiere dove era diretto, il labirinto. Ne percorse l'intrico delle vie con la sicurezza della familiarità. Era davvero un dedalo di vicoli bui, cortili chiusi e strade tortuose, suoni furtivi e odori metifici. Non c'era pavimentazione sulle strade, il fango e la sporcizia si mescolavano in un disgustoso guazzabuglio. Le fogne erano sconosciute, i rifiuti erano scaricati direttamente nei vicoli e formavano cumuli maleodoranti e pozzanghere. Se non si faceva attenzione nel camminare, era facile perdere l'equilibrio e affondare fino alla cintola in quelle pozze nauseabonde. Non era nemmeno inconsueto inciampare in un cadavere steso nel fango con la gola tagliata o la testa spaccata. La gente onesta evitava il labirinto, e con ragione. Conan raggiunse la sua destinazione senza essere visto, proprio mentre una persona che desiderava vedere se ne stava andando. Mentre il cimmero penetrava furtivamente nel cortile sottostante, la ragazza, che lo aveva venduto alla polizia, stava prendendo commiato dal suo nuovo amante in una camera del primo piano. Il giovane malfattore, chiusa la porta dietro di sé, brancolava giù per una scricchiolante rampa di scale, immerso in riflessioni che, come quella della maggior parte degli abitanti del labirinto, avevano a che fare con l'acquisizione illegale delle proprietà altrui. Fatta mezza rampa, si fermò improvvisamente, mentre i capelli gli si rizzavano sul capo. Una massa vaga era rannicchiata nel buio davanti a lui, con gli occhi fiammeggianti come quelli di un animale braccato. Un ringhio bestiale fu l'ultima cosa che sentì nella sua vita. Infatti, il mostro si avventò su di lui e con un coltello acuminato gli lacerò il ventre. Con un solo grido affannoso, crollò fiaccamente sulla scala. Il barbaro, simile a un demone, guardò un attimo sopra di lui, con gli occhi rapaci e brucianti nelle tenebre. Sicuramente il suono era stato udito, ma la gente del labirinto si occupava prudentemente dei propri affari. Un grido di morte echeggiante su scale buie non era affatto inconsueto. Più tardi qualcuno si sarebbe avventurato a curiosare, ma solo dopo un ragionevole lasso di tempo. Conan salì le scale e si fermò davanti a una porta che conosceva bene. Era sbarrata dal di dentro, ma la sua lama passò attraverso la porta e sollevò la spranga. Entrò, chiuse la porta dietro di sé e si trovò faccia a faccia con la ragazza che lo aveva denunciato alla polizia. La giovane era seduta a gambe incrociate sul letto disfatto, vestita solo della camicia. Si voltò, pallida come un cencio, verso di lui e lo fissò come se vedesse un fantasma. Aveva sentito il grido sulla scala e adesso vedeva la macchia rossa sul pugnale che Conan teneva in mano. Ma era troppo terrorizzata per sé per sprecare il fiato a piangersi sulla sorte dell'amante. Cominciò a chiedere pietà con parole incoerenti per la paura. Conan non rispose, si limitò a fissarla con occhi roventi, tastando il filo del pugnale con il pollice calloso. Infine attraversò la camera, mentre la ragazza si ritraeva contro il muro, singhiozzando frenetiche implorazioni di pietà. Afferrandola rudemente per i biondi riccioli, la tirò fuori dal letto. Ricacciando la lama nel fodero, si mise la prigioniera scalciante sotto il braccio sinistro e si diresse a grandi passi verso la finestra. Come nella maggior parte delle case di quel tipo, un bordo, che era una continuazione dell'orlo delle finestre, circondava ogni piano. Conan scavalcò la finestra aperta e avanzò su quello stretto margine. Se qualcuno si fosse trovato nei pressi o si fosse svegliato in quel momento, avrebbe potuto vedere la bizzarra scena di un uomo che si muoveva cautamente lungo il bordo, trasportando sotto il braccio una ragazza scalciante e seminuda. E non sarebbe rimasto più stupito di quanto non lo fosse la ragazza. Raggiunto il punto che cercava, Conan si fermò, afferrandosi al muro con la mano libera. Dentro l'edificio si levò un improvviso clamore, segno che il corpo era stato finalmente scoperto. La prigioniera cominciò a piagnucolare e a torcersi, rinnovando le sue preghiere. Conan gettò un'occhiata alla melma e alla fanghiglia sottostanti. Ascoltò brevemente il clamore che proveniva dall'interno e le implorazioni della prigioniera. Poi la lasciò cadere con accurata precisione nel pozzo nero. Si divertì qualche secondo a guardarla scalciare e dibattersi e ad ascoltare il veleno delle sue imprecazioni e si concesse persino una grassa risata. Poi risollevò la testa, ascoltò il crescente tumulto dentro l'edificio e decise che era tempo per lui di andare a uccidere Nabonidus. Con il 40% di sconto su 40 prodotti, la Pasqua alla Coop è più buona per il tuo portafogli e anche per me e il mio coniglietto. Buona Pasqua a tutti! Scopri il negozio e i prodotti in sconto. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 21 aprile. La Coop sei tu. Fu fu l'eco di un clangore di metallo a svegliare Murilo. Gemette, sforzandosi di mettersi seduto. Attorno a lui tutto era silenzio e tenebre, e per un istante fu colto dalla paura di essere cieco. Poi ricordò cos'era successo e la pelle gli si accapponò. Tastando attorno a sé, scoprì di essere steso su un pavimento fatto con regolari lastre di pietra affiancate. Poi scoprì che il muro era fatto dello stesso materiale. Si alzò e si appoggiò contro la parete, tentando invano di orientarsi. Che si trovasse in una specie di prigione era certo, ma dove fosse situata e quanto fosse ampia era impossibile indovinare. Rammentò debolmente che aveva sentito un rumore e si chiese se era stata la porta di ferro della cella che si chiudeva su di lui o se indicava l'arrivo del suo carnefice. A questo pensiero rabbrividì profondamente e cominciò a muoversi lungo il muro. Si aspettava di incontrare i limiti della sua prigione da un momento all'altro, ma dopo un po' giunse alla conclusione che stava muovendosi in un corridoio. Si tenne aderente al muro per timore di pozzi o altre trappole e fu subito conscio di una presenza nel buio vicino a lui. Non poteva scorgere nulla, ma i suoi orecchi avevano colto un suono furtivo, o forse era stato il suo istinto che lo aveva messo in allarme. Si fermò bruscamente, con i capelli ritti. Era sicuro, come della sua stessa vita, di sentire la presenza di un essere vivente rannicchiato nell'oscurità di fronte a lui. Stava pensando che il suo cuore si sarebbe fermato, quando una voce bisbigliò con accento barbaro. «Murilo, sei tu?» «Conan!» Infiacchito per la reazione alla paura di poco prima, il giovane nobile brancolò nel buio e le sue mani incontrarono due grandi spalle nude. «Fortuna che ti ho riconosciuto!» borbottò il barbaro. «Stavo per infilzarti come un maiale!» «Dove siamo, in nome di Mitra?» «Nei pozzi sotto la casa del prete rosso!» «Ma perché?» «Che ora è?» «Mezzanotte appena passata!» Murilo scosse la testa, cercando di riprendere possesso delle sue facoltà confuse. «Che cosa ci fai qui?» chiese il cimmero. «Sono venuto a uccidere Nabonidus. Ho sentito che hanno cambiato la guardia alla prigione.» «L'hanno fatto!» brontolò Conan. «Ma ho spaccato la testa al nuovo carceriere e sono uscito. Sarei potuto arrivare qualche ora fa, ma avevo delle faccende personali da sistemare. Bene, andiamo a scovare questo Nabonidus.» Murilo rabbrividì. «Conan, siamo nella casa di un demone. Sono venuto a cercare un nemico mortale e ho trovato un diavolo dell'inferno.» Conan brontolò incerto. Intrepido come una tigre ferita per quanto riguardava i nemici mortali, conservava però tutti i superstiziosi terrori del primitivo. «Ho raggiunto l'entrata della casa», continuò Murilo, bisbigliando come se il buio fosse pieno di orecchi curiosi. «Nei giardini esterni ho trovato il cane di Nabonidus straziato a morte. Dentro mi sono imbattuto in gioca, il servo. Aveva il collo spezzato. Poi ho visto lo stesso Nabonidus seduto su una sedia, vestito come sempre. Subito ho pensato che anche lui fosse morto. Mi sono avvicinato furtivamente per pugnalarlo, ma lui si è alzato fronteggiandomi. Dei!» Il ricordo di quell'orrore colpì il giovane aristocratico, lasciandolo momentaneamente senza parole, come se stesse rivivendo il terribile istante. «Non era un uomo quello che stava di fronte a me. Il corpo e l'atteggiamento non erano dissimili da quelli di un uomo, ma dal cappuccio scarlatto del prete sghignazzava una faccia d'incubo e di follia. Era ricoperta di peli neri, tra i quali rosseggiavano due piccoli occhi porcini. Il naso era camuso, con due grandi narici. Le labbra aperte erano rovesciate all'indietro e si dischiudevano su enormi zanne, gialle come i denti di un cane. Le mani che spuntavano dalle maniche scarlatte erano deformi e coperte anch'esse di una fitta peluria nera. Mi bastò un'occhiata. Poi fui sopraffatto dall'orrore. I sensi mi abbandonarono e svenni.» «E poi?» mormorò il cimmero inquieto. «Ho ripreso conoscenza solo pochi minuti fa. Il mostro deve avermi gettato in questi pozzi. Conan, mi è venuto il sospetto che Nabonidus non sia del tutto umano. È un demone, un lupo mannaro. Di giorno si muove tra l'umanità in sembianze umane e la notte assume il suo vero aspetto.» «È chiaro», rispose Conan. «Tutti sanno che esistono degli uomini che possono trasformarsi in lupi quando vogliono. Ma perché ha ucciso i suoi servi?» «Chi può sondare la mente di un demone?» rispose Murilo. Adesso ci interessa andare via da questo posto. Le armi umane non possono ferire un lupo mannaro. Come sei arrivato fin qui? Attraverso la fogna. Ho pensato che il giardino fosse sorvegliato. La fogna è collegata con un tunnel che conduce a questi pozzi. Pensavo di trovare una porta senza catenaccio che mi portasse nella sua casa. Allora scappiamo da dove sei venuto! Esclamò Murilo. Che se ne vada il diavolo! Una volta fuori dalla tana del serpente, rischieremo uno scontro con le guardie del re, tentando una sortita dalla città. Coraggio! Non è possibile, brontolò il cimero. La via che porta alla fogna è sbarrata. Quando sono entrato nel tunnel, una saracinesca di ferro è caduta giù dall'alto. Se non mi fossi spostato più veloce del lampo, le sue punte mi avrebbero inchiodato al suolo come un verme. Quando ho cercato di sollevarla, non si è nemmeno mossa. Neanche un elefante riuscirebbe a spostarla. E niente che sia più grande di un coniglio potrebbe passare attraverso le sbarre. Murilo imprecò e gli parve che una mano di ghiaccio stesse correndo su e giù per la sua spina dorsale. Era chiaro che Nabonidus non lasciava sguarnita nessuna entrata della casa. Se Conan non avesse posseduto la rapidità di un selvaggio, la caduta di quella saracinesca lo avrebbe infilzato. Senza dubbio, il suo passaggio nel tunnel aveva fatto scattare qualche leva nascosta, sganciando la grata. Se era così, ambedue erano intrappolati. C'è una sola cosa da fare. Dobbiamo cercare un'altra uscita. Senza dubbio ci saranno delle trappole, ma non abbiamo scelta. Il barbaro grugnì in segno di assenso e i due cominciarono a brancolare a casaccio nel corridoio. Proprio in quel momento Murilo si ricordò di qualcosa. Come hai fatto a riconoscermi al buio? Chiese. Quando sei venuto nella mia cella, ho sentito il profumo che ti metti nei capelli, rispose Conan. L'ho sentito di nuovo quando ero nell'oscurità e mi preparavo a sbudellarti. Murilo si portò una ciocca dei capelli neri alle narici e anche così i suoi sensi civilizzati potevano coglierne a malapena il profumo e questo gli fece constatare quanto fossero acuti i sensi del barbaro. Mentre così procedevano, istintivamente la sua mano corse al fodero della spada e si accorse, bestemmiando, che era vuoto. In quel momento, un debole luccichio apparve sopra di loro. Arrivarono a una stretta curva del corridoio che lasciava filtrare una luce grigiastra. Insieme scrutarono dietro l'angolo e Murilo, sporgendosi sopra il suo compagno, sentì che si irrigidiva. Anche il giovane aristocratico vide il corpo di un uomo, mezzo nudo. Giaceva abbandonato nel corridoio dietro la curva, vagamente illuminata da una folgore che sembrava provenire da un grande disco d'argento appeso al muro più distante. La figura, distesa con la faccia rivolta in giù, aveva uno strano aspetto familiare agli occhi di Murilo, che venne scosso da inesplicabili e mostruose congetture. Facendo cenno al cimmaro di seguirlo, proseguì e si chinò sul corpo. Vincendo una certa ripugnanza, lo afferrò e lo girò sulla schiena. Un'imprecazione gli sfuggì dalla bocca. Il cimmero esplose in un brontolio. «Nabonidus, il prete rosso!» esclamò Murilo, il cui cervello era divenuto un vertiginoso vortice di stupore. «Allora chi? Cosa?» Il prete gemette e si agitò. Con la velocità di un felino, Conan si chinò su di lui, puntandogli il pugnale al cuore. Murilo gli afferrò il polso. «Aspetta, non ucciderlo ancora!» «Perché no?» chiese il cimmero. «Si è liberato delle spoglie di lupo e ora dorme! Vuoi svegliarlo perché ci faccia pezzi?» «No, aspetta!» incalzò Murilo, cercando di mettere ordine nella confusione. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen alla Reggia Designer Outlet e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Che aveva in testa? Guarda, non sta dormendo. Vedi il grande livido che ha sulla tempia? È stato colpito e ha perso i sensi. Forse giace qui da ore. Ti ho sentito spergiurare di averlo visto in sembianze di animale sopra nella casa, disse Conan. È vero. Oppure... sta rinvenendo. Ritira la lama, Conan. Qui c'è un mistero più fitto di quel che pensavo. Devo parlare con questo prete prima che lo uccidiamo. Nabonidus sollevò una mano verso la tempia confusa, biascicò qualcosa e aprì gli occhi. per un istante, rimasero vacui e privi di intelligenza. Poi la vita vi ritornò come un guizzo. Si mise seduto e fissò i due compagni. Qualunque fosse la terribile scossa che lo aveva temporaneamente confuso, adesso il suo cervello stava funzionando con l'abituale vigore. Gli occhi percorsero velocemente lo spazio attorno a lui, poi tornarono a fissarsi sul viso di Murilo. «Tu onori la mia povera casa, giovane signore!» ironizzò freddamente, lanciando un'occhiata alla grande figura che si mostrava dietro le spalle del giovane aristocratico. «Hai portato un bravaccio, vedo! La tua spada non era sufficiente per recidere la vita della mia umile persona!» «Basta!» rispose l'impaziente Murilo. «Quanto tempo sei rimasto qui?» «Ecco una ben bizzarra domanda da porre a un uomo che sta ora riprendendo conoscenza!» rispose il prete. «Non so che ora sia, ma mancava un'ora pressappoco, alla mezzanotte, quando sono stato assalito!» «Allora chi si mascherava con la tua toga?» chiese Murilo. «Sarà stato Tac!» rispose Nabonidus, toccandosi delicatamente con le dita le ammaccature. «Sì, deve essere stato Tac! Nella mia toga, cane!» Conan, che non comprendeva niente di quel discorso, si agitava inquieto, mormorando qualcosa nella sua lingua. Nabonidus lo fissò con un'occhiata strana. «Il coltello del tuo bravaccio anela il mio cuore, Murilo», disse. «Pensavo che saresti stato abbastanza saggio da capire il mio avvertimento e lasciare la città». «Come facevo a sapere che mi sarebbe stato concesso di farlo?» rispose Murilo. «Ad ogni modo, i miei interessi sono qui». «Sei in buona compagnia con questo tagliagole», mormorò Nabonidus. «Ti sospettavo da qualche tempo. Per questo ho causato la scomparsa di quel pallido segretario di corte. Prima di morire mi ha detto varie cose, tra cui il nome del giovane nobile che lo corruppe per indurlo a rivelare segreti di Stato, segreti che il nobile in questione vendeva alle potenze rivali. Non ti vergogni di te stesso, Murilo, ladro dalle mani bianche?» «Non ho ragioni di vergognarmi più di quante ne abbia tu, predone dal cuore di avvoltoio», rispose prontamente Murilo. «Sfrutti un intero regno per i tuoi personali piaceri e dietro le apparenze del grande statista disinteressato raggiri il re, riduci in miseria il ricco, opprimi il povero e sacrifichi il futuro della nazione alle tue spietate ambizioni. Non sei altro che un grosso maiale con il muso nella greppia. Sei un ladro più grande di me. Questo cimmero è il più onesto di noi tutti, perché almeno ruba e uccide apertamente». «Bene, allora siamo tutti ladri allo stesso modo», convenne Nabonidus imperturbabile. «E adesso mi togli la vita!» «Quando vidi l'orecchio del segretario che era scomparso, capii di essere condannato», disse bruscamente Murilo. «E pensai che ti saresti rivolto alle autorità del re. Avevo ragione?» «Abbastanza», rispose il prete. «Un segretario di corte è facile da eliminare, ma tu sei un po' troppo importante. Avevo l'intenzione di raccontare al re una storiella su di te in mattinata». «Una storiella che mi sarebbe costata la testa», mormorò Murilo. «Allora il re non è al corrente delle mie imprese con gli stranieri?» «Non ancora», sospirò Nabonidus. «E ora, poiché vedo che il tuo compagno ha un pugnale, temo che quella storiella non gli sarà mai raccontata». «Dovresti sapere come si fa a uscire da questa topaia», disse Murilo. «Supponi che ti risparmi la vita. Ci aiuterai a fuggire e giurerai di conservare il silenzio sulle mie ruberie?» «Quando mai un prete ha mantenuto la parola?» intervenne Conan, comprendendo la piega che stava prendendo la conversazione. «Lascia che gli tagli la gola, voglio vedere di che colore è il suo sangue. Nel labirinto dicono che il suo cuore è nero e anche il suo sangue deve esserlo». «Sta calmo», bisbigliò Murilo. «Se non ci mostra la strada per uscire da questi pozzi, finiremo per marcire qua dentro. Allora, Nabonidus, che cosa dici?» «Cosa dice il lupo che ha una zampa nella tagliola?» motteggiò il prete. «Sono nelle vostre mani e se vogliamo fuggire dobbiamo aiutarci a vicenda. Giuro che se sopravviverò a questa avventura dimenticherò tutti i tuoi ambigui raggiri. Giuro per l'anima di Mitra». «Mi sta bene», mormorò Murilo. «Nemmeno il prete rosso romperebbe un tale giuramento. E ora cerchiamo di uscire da qui. Il mio amico è entrato attraverso il tunnel, ma una griglia è caduta sopra di lui e ne ha bloccato l'uscita. Puoi provvedere a rimuoverla?» «Non da questi pozzi», rispose il prete. «La leva di controllo si trova nella camera sopra il tunnel. C'è un altro modo per uscire dai pozzi e ve lo mostrerò. Ma prima ditemi, Come siete arrivati fin qui? Murilo glielo spiegò in poche parole e Nabonidus annuì, alzandosi rigidamente in piedi. Avanzò zoppicando nel corridoio, che in quel punto si trasformava in una sorta di vasta camera, e si diresse verso il lontano disco d'argento. A mano che si avvicinavano, la luce aumentava, sebbene non diventasse altro che una pallida luminosità ombrosa. Vicino al disco videro una stretta scala che saliva. «Questa è l'altra uscita», disse Nabonidus. «E dubito che la porta che sta in cima sia chiusa a chiave, ma ho idea che il primo che si affaccerà da quella porta si ritroverà con la gola tagliata. Guarda nel disco». Quello che sembrava un piatto d'argento era in realtà un grande specchio appeso al muro. Un confuso sistema di tubi di rame usciva dal muro accanto ad esso e i tubi si affacciavano ad angolo retto sullo specchio. Guardando dentro i tubi, Murilo scorse uno stupefacente apparato di specchi più piccoli. Rivolse l'attenzione a quello più grande che stava appeso al muro e lanciò delle esclamazioni di meraviglia. Scrutando sopra la sua spalla, anche Conan brontolò. Sembrava di guardare da un'ampia finestra entro una stanza ben illuminata. C'erano ampi specchi sui muri e tra di essi delle cortine di velluto. C'erano divani di seta, sedie di ebano e d'avorio e varie porte chiuse da tende che conducevano fuori dalla stanza. E davanti a un'arcata nuda stava un oggetto massiccio e nero che contrastava in modo grottesco con la ricchezza della camera. Murilo sentì il suo sangue raggelarsi di nuovo quando guardò quell'orrore che sembrava fissarlo proprio negli occhi. Involontariamente si ritrasse dallo specchio mentre Conan stringeva ferocemente la testa in avanti fino a che le guance non toccarono quasi la superficie, borbottando qualche diffidente minaccia nella sua lingua barbarica. «In nome di Mitra, Nabonidus!» ansimò Murilo scosso. «Che cos'è?» «Tac!» rispose il prete accarezzandosi la tempia. «Qualcuno lo definirebbe una scimmia, ma è differente da una vera scimmia quasi quanto lo è da un uomo. Il suo popolo abita nell'estremo oriente, nelle montagne che limitano le frontiere orientali della Zamora. Non ce ne sono molti, ma se non saranno sterminati, credo che diventeranno esseri umani tra circa 100.000 anni. Si trovano in uno stadio in formazione. Non sono né scimmie, come erano i loro avi, né uomini, come diventeranno i loro lontani discendenti. Abitano tra le alte rupi scoscese di montagne quasi inaccessibili e non sanno niente del fuoco, non sanno costruirsi ripari o abiti, né conoscono l'uso delle armi. Tuttavia hanno una sorta di linguaggio, consistente per lo più in grugniti e schiocchi della lingua. Lo presi quando era un cucciolo e imparò quello che gli insegnavo più rapidamente e perfettamente di quanto avrebbe fatto qualsiasi vero animale. Fungeva contemporaneamente da guardia del corpo e da servo. Ma dimenticai che, essendo in parte umano, non poteva trasformarsi in una semplice ombra di me stesso, come avrebbe fatto un vero animale. Il suo mezzo cervello sembrava ritenere impressioni di odio, risentimento e qualche sorta di bestiale ambizione personale. Ad ogni modo colpì quando meno me l'aspettavo. L'altra notte sembrò diventare improvvisamente pazzo. Le sue azioni avevano tutta l'apparenza di una follia bestiale, eppure capisco ora che doveva essere stato il risultato di un piano lungo e preciso. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Sentì un suono di lotta nel giardino e andai a vedere. Credevo che fossi tu, atterrato dal mio cane da guardia. E vidi Tac emergere dai cespugli sporco di sangue. Prima che mi rendessi conto delle sue intenzioni, si gettò su di me con un terribile urlo e mi colpì facendomi perdere i sensi. Non ricordo altro. Posso soltanto supporre che, seguendo qualche capriccio del suo cervello semiumano, mi spogliò della mia toga e mi scagliò nei pozzi. Per quale ragione solo gli dèi possono saperlo. Deve aver ammazzato il cane e, dopo avermi colpito, ha ucciso evidentemente Gioca, che voi avete visto steso a terra morto nella casa. Gioca sarebbe venuto in mio aiuto, persino contro Tac, perché lo odiava da sempre. Murilo fissò nello specchio la creatura che stava seduta con mostruosa pazienza davanti alla porta chiusa. Rabbrividì alla vista di quelle grandi mani nere ricoperte da una peluria fitta come una pelliccia. Il corpo era massiccio, ampio e incurvato. L'innaturale imponenza delle spalle aveva strappato la toga scarlatta e Murilo notò su di esse la stessa fioritura di folta peluria nera. La faccia che spuntava dal rosso cappuccio era completamente bestiale e tuttavia Murilo si rese conto che Nabonidus era nel vero, affermando che Tak non era del tutto un animale. C'era qualcosa in quei tenebrosi occhi rossi, qualcosa nel rozzo atteggiamento della creatura, qualcosa nell'intero aspetto di quell'essere che lo collocava fuori dal regno animale. Quel corpo mostruoso ospitava un cervello e un'anima che stavano germogliando in qualcosa di vagamente umano. Murilo rimase stupefatto nel ravvisare una debole e odiosa affinità tra la propria specie e quella mostruosità accovacciata, e fu nauseato dalla fugace percezione degli abissi di urlante bestialità attraverso i quali l'umanità era faticosamente avanzata. «Può sicuramente vederci», mormorò Conan. «Perché non ci attacca? Potrebbe facilmente rompere questo vetro». Murilo capì che Conan scambiava lo specchio dal quale stavano guardando per una finestra. «Non ci vede», rispose il prete. «Stiamo guardando la camera che sta sopra di noi. La porta che Tak sta sorvegliando è posta in cima a questa scala. È un semplice accorgimento di specchi. Vedete quegli specchi sui muri? Essi trasmettono il riflesso della stanza in questi tubi e altri specchi lo trasmettono poi su una scala allargata in quella grande». Murilo capì che il prete, per portare una simile perfezione a quel dispositivo, doveva avere conoscenze che superavano di secoli quelli della sua generazione. Ma Conan la giudicò una banale stregoneria e non se ne preoccupò più. «Ho costruito questi pozzi per farne un rifugio e una prigione», stava dicendo il prete. «Ci sono state delle occasioni in cui ho dovuto nascondermi qui e ho osservato da questi specchi abbattersi la punizione su quanti erano venuti ad attaccarmi». «Ma perché Tak sorveglia quella porta?» chiese Murilo. «Deve aver udito cadere la saracinesca nel tunnel. È collegata con dei campanelli che stanno nelle camere di sopra. Tak sa che nei pozzi c'è qualcuno e sta aspettando che salga la scala. Oh, ha imparato bene le lezioni che gli ho dato. Ha visto quello che succede agli uomini che oltrepassano la porta quando tiro la fune che pende su quel muro e sta aspettando di scimmiottarmi». «E mentre aspetta, che cosa dobbiamo fare?» chiese Murilo. «Non c'è niente che possiamo fare se non sorvegliarlo. Fino a quando rimane nella stanza non possiamo rischiare di salire la scala. Ha la forza di un vero gorilla e può facilmente farci a pezzi. Ma non ha nemmeno bisogno di usare i muscoli. Se apriamo quella porta deve soltanto dare uno strappo alla corda per farci precipitare nell'eternità». «Come?» «Ho fatto il patto di aiutarvi a fuggire», rispose il prete. «Non di rivelarvi i miei segreti». Murilo fece per rispondere, ma di colpo si irrigidì. Una mano furtiva aveva aperto le cortine di una delle porte della stanza. Spuntò una faccia scura, i cui occhi scintillanti fissavano minacciosi la forma avvolta nell'abito scarlatto. «Petreus», sibilò Nabonidus. «Mitra, che bella raccolta di avvoltoi c'è qui questa notte!» La faccia restava incorniciata tra le cortine. Dal di sopra della spalla dell'intruso altri volti facevano capolino, bruni e sottili, animati da una sinistra bramosia. «Che cosa ci fanno qui?» mormorò Murilo, abbassando automaticamente la voce, sebbene sapesse che i nuovi venuti non potevano udirlo. «Che cosa potrebbero fare Petreus e i suoi ardenti giovani nazionalisti nella casa del prete rosso?» rise Nabonidus. «Guardate con quanta avidità issano la figura che credono sia il loro mortale nemico. Sono caduti nello stesso errore in cui siete caduto voi. Sarà divertente vedere le loro espressioni quando si accorgeranno dell'inganno». Murilo non rispose. L'intera faccenda aveva un sentore di irrealtà. Si sentì come se stesse osservando un gioco di pupazzi o come se egli stesso fosse un fantasma disincarnato che, nascosto e insospettato, guardasse freddamente le azioni dei viventi. Vide Petreus portarsi l'indice alle labbra, facendo un cenno di avvertimento agli altri cospiratori. Il giovane aristocratico non poteva dire se Tak si fosse accorto della presenza degli intrusi. La posizione dell'uomo scimmia non era cambiata, sedeva con il dorso rivolto alla porta da dove gli uomini lo stavano fissando. «Hanno avuto la vostra stessa idea», stava mormorando Nabonidus al suo orecchio. «Solo che le loro ragioni sono più patriottiche che egoistiche. L'accesso alla mia casa è diventato facile ora che il cane è morto. Oh, che opportunità di liberarmi delle loro minacce una volta per tutte! Se fossi seduto al posto di Tak, un balzo verso il muro, uno strattone alla corda!» Petreus aveva mosso un cauto passo sulla soglia della camera e i compagni gli stavano dietro con i pugnali che mandavano fiochi riflessi. Improvvisamente, Tak si alzò e girò verso di loro. L'orrore inaspettato del suo aspetto, invece della faccia odiata ma familiare di Nabonidus, colpì rovinosamente i loro nervi, come già era successo a Murilo. Petreus indietreggiò con un urlo, trascinandosi dietro i compagni. Inciamparono, dibattendosi l'uno sull'altro, mentre l'uomo scimmia, con un grottesco balzo, afferrava uno spesso cordone di velluto che pendeva accanto alla porta e lo scuoteva con forza. Immediatamente le cortine si ritirarono da entrambi i lati, lasciando libera la porta. In essa qualcosa scese con un bizzarro lampo argenteo. «Se n'è ricordato!» Nabonidus stava esultando. «La bestia è per metà uomo! Ha visto profilarsi la minaccia e ha ricordato! Guardate ora, guardate, guardate!» Murilo vide che uno spesso pannello di vetro aveva chiuso la porta e dietro il vetro vide le facce dei cospiratori. Petreus, scagliando le mani avanti come per ripararsi da un assalto di Tak, urtò la barriera trasparente e dai gesti che fece si capì che stava dicendo qualcosa ai compagni. Ora che le cortine si erano ritirate, i tre uomini potevano vedere tutto ciò che avveniva nella camera dove stavano i nazionalisti. Completamente fuori di sé, essi attraversarono la camera di corsa fino alla porta da cui erano entrati, ma si fermarono bruscamente, ostacolati da un muro invisibile. «Lo strattone dato alla fune ha sigillato quella camera!» rise Nabonidus. «È semplice! I pannelli di vetro scorrono in guide verticali! Tirando la fune scatta la molla che li fa scendere! Le lastre scivolano giù e si bloccano! Possono essere rialzate solo dall'esterno! Un uomo con un martello non riuscirebbe a frantumarlo!» Gli uomini intrappolati erano isterici per la paura, correvano da una porta all'altra, percuotendo vanamente le pareti di vetro, levando selvaggiamente i pugni contro l'implacabile figura nera che stava accovacciata davanti a loro. Poi uno alzò la testa, guardò in alto e cominciò a urlare, a giudicare dal movimento delle sue labbra, indicando il soffitto. «La caduta dei pannelli ha liberato la nuvola mortale!» disse il prete rosso con una selvaggia risata. «Il polline del loto grigio, che cresce nelle paludi della morte che stanno oltre le contrade del Kitai!» Dal centro del soffitto pendeva un grappolo di boccioli d'oro. Si aprirono come i petali di una grande rosetta cesellata, lasciando cadere una caligine grigia che rapidamente invase la camera. Subito la scena di isterismo si trasformò in una di follia e di orrore. Gli uomini intrappolati cominciarono a vacillare, si misero a correre in circolo come ubriachi. Avevano la bava alla bocca, le labbra contorte in una terribile risata. Si buttarono violentemente l'uno contro l'altro, colpendosi furiosamente con i pugnali, facendosi a pezzi con i denti, uccidendosi in un olocausto di follia. Murilo si voltò disgustato per non vedere e fu contento di non poter sentire gli urli e le grida che certamente risuonavano in quella stanza maledetta. Era silenziosa, come le immagini di un dipinto. Fuori dell'orribile camera, Tak stava saltando qua e là con brutale allegria, lanciando in aria le lunghe braccia pelose. Alle spalle di Murilo, Nabonidus rideva come un demonio. «Ah, bel colpo, Petreus! L'hai quasi sbudellato! Adesso uno a te, mio patriottico amico! Così sono caduti tutti, e i vivi strappano la carne ai morti con i denti!» Murilo rabbrividì. Dietro di lui il cimmero imprecava piano nella sua strana lingua. Solo la morte era visibile nella camera invasa dalla grigia polvere. Maciullati, sfregiati e mutilati, i cospiratori giacevano in un unico mucchio rosso. Le bocche spalancate e le facce umide di sangue fissavano senza vedere il lento turbinio dei vortici grigi. Tak, curvato come un gigantesco gnomo, si avvicinò al muro dove pendeva la corda e la tirò di lato. Sta aprendo la porta più lontana da lui, disse Nabonidus. Per Mitra, è più umano di quanto avessi pensato. Guardate, la polvere esce dalla stanza e si dissipa. Ora aspetta, per essere sicuro. Alza l'altro pannello. È prudente, conosce il loto grigio che porta alla follia e la morte. Per Mitra! Murilo sussultò per il tono di quell'esclamazione. La nostra unica possibilità, esclamò Nabonidus, è se lasciasse la camera per qualche minuto. Allora potremmo rischiare una veloce sortita dalla scala. Improvvisamente tesi, osservarono il mostro dirigersi dondolando verso l'arcata e svanire. Il pannello di vetro, innalzandosi, aveva fatto ricadere le cortine, nascondendo la camera della morte. «Dobbiamo tentare!» ansimò Nabonidus, e Murilo vide il sudore inondargli la faccia. «Forse starà eliminando i corpi come ha visto fare a me! Svelti, seguitemi per le scale!» Corse verso i gradini, salendo con un'agilità che stupì Murilo. Il giovane aristocratico e il barbaro gli stavano alle calcagna. Udirono il profondo sospiro di sollievo che emise nell'aprire la porta in cima alle scale. Si precipitarono nell'interno dell'ampia camera che avevano osservato nello specchio. Tac non era visibile. «È nella camera dei cadaveri!» esclamò Murilo. «Perché non lo intrappoliamo come ha fatto con loro?» «No, no!» ansimò Nabonidus, i lineamenti velati da un inconsueto pallore. «Non sappiamo se è lì, e in ogni caso potrebbe spuntare fuori prima che riuscissimo a raggiungere la fune che manovra i pannelli. Seguitemi nel corridoio! Devo raggiungere la mia camera per prendere le armi che lo distruggeranno! Questo corridoio è l'unico che esca dalla stanza e che non abbia nessuna trappola!» Lo seguirono silenziosamente per la porta che si trovava di fronte a quella della Camera della Morte e arrivarono in un corridoio sul quale si aprivano molte stanze. Con furia, Nabonidus cominciò a spingere tutte le porte che si trovavano su ciascun lato. Erano chiuse a chiave, e così pure la porta che stava dall'altro capo del corridoio. Il prete rosso si appoggiò al muro. La sua pelle era cinerea. «Le porte sono chiuse e Tak mi ha sottratto le chiavi! Siamo intrappolati!» Murilo lo fissava, sgomento di vederlo in preda a una crisi di nervi. Nabonidus si costrinse a riprendersi. «Quella bestia mi getta nel panico», disse. «Se voi lo aveste visto fare a pezzi degli uomini come l'ho visto io! Che Mitra ci aiuti, ma dobbiamo combatterlo con quello che gli dèi ci hanno dato! Venite!» Si chinò dietro le tende della porta e scrutò la vasta camera. In tempo per vedere Tak emergere dalla parte opposta. Era evidente che l'uomo scimmia sospettava qualcosa. Le piccole orecchie si contrassero, si guardò rabbiosamente attorno e, avvicinatosi alla porta più vicina, strappò le tende per osservare. Nabonidus indietreggiò, tremando come una foglia, afferrò la spalla di Conan. «Uomo, oseresti opporre il tuo pugnale alle sue zanne?» Gli occhi del cimmero lampeggiarono in risposta. «Sbrigati!» mormorò il prete rosso spingendolo dietro le cortine contro il muro. «Visto che prima o poi ci scoprirà, lo attireremo verso di noi. Quando si scaglia in avanti, affondagli la lama nella schiena, se puoi. E voi, Murilo, fatevi vedere da lui e poi correte verso il fondo del corridoio. Mitra lo sa, non abbiamo possibilità di vittoria in un corpo a corpo con lui, ma saremo in ogni caso perduti quando ci troverà». Murilo sentì che il sangue gli si gelava nelle vene, ma si fece forza e uscì fuori dal riparo dell'arcata. Immediatamente Tak, che si trovava all'altro capo della stanza, si voltò, lo fissò e si avventò su di lui con un tonante ruggito. Il cappuccio scarlatto era scivolato indietro, rivelando una deforme testa bruna. Le mani nere e il vestito erano spruzzati di un rosso più acceso. Pareva un incubo in nero e scarlatto, mentre si precipitava nella stanza con le zanne nude e le gambe curve che spingevano l'enorme corpo a un'andatura terrificante. Murilo si voltò e corse nel corridoio, ma per quanto fosse veloce, l'orrore peloso era quasi alle sue calcagna. Poi, mentre il mostro passava davanti alle cortine, una figura massiccia ne uscì e volò sulle spalle dell'uomo scimmia, affondando nello stesso tempo il pugnale nella schiena del bruto. Tak urlò orribilmente quando l'urto lo fece cadere e toccò il pavimento insieme a Conan. Subito ci fu un mulinello di membra sbattute e si alzò il rumore di una diabolica lotta. Murilo vide che il barbaro aveva stretto le gambe attorno al torace dell'uomo scimmia. Lottava per mantenere la sua posizione alle spalle del mostro e intanto lo massacrava a colpi di pugnale. Tac da parte sua si sforzava di sciogliersi dalla stretta dell'avversario per portarselo alle gigantesche zanne che bramavano mordere. Rotolarono lungo il corridoio in un turbinio di colpi e brandelli scarlatti. Ruotavano così rapidamente che Murilo non osò sferrare un colpo con la sedia che aveva afferrato, per timore di colpi. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pire il cimmero. Era chiaro che nonostante lo svantaggio della sorpresa e l'impaccio del voluminoso vestito che gli avvolgeva gli arti e il corpo, la forza gigantesca di Tac stava rapidamente avendo la meglio. Stava inesorabilmente trascinando il cimmero di fronte a sé. L'uomo scimmia era stato ferito da un numero di colpi tale da uccidere una dozzina di uomini. Il pugnale di Conan era affondato innumerevoli volte nel suo dorso, nelle spalle e nel collo massiccio. Ma se la lama non fosse riuscita a raggiungere presto un punto vitale, l'inumana vitalità di Tac lo avrebbe ancora sorretto quel tanto che bastava per finire il cimmero, e dopo di lui i due compagni. Conan stava lottando come se fosse anche lui una bestia selvaggia, in un silenzio rotto solo dai suoi respiri contratti. I neri artigli del mostro e la terribile stretta di quelle deformi mani lo squassavano e lo graffiavano, e le mascelle cercavano la sua gola. Poi Murilo, vedendo uno spiraglio, sollevò la sedia e la colò con una forza sufficiente a spaccare la testa di un essere umano. La sedia rimbalzò sul nero cranio di Tac, ma stordì momentaneamente il mostro, che allentò la stretta mortale. Conan, ansimante e coperto di sangue, ne approfittò per affondare il pugnale sino all'elsa, nel cuore dell'uomo scimmia. Con un brivido convulso, Tac tese tutti i muscoli in una stretta rabbiosa. Poi cadde fiaccamente al suolo. Gli occhi feroci si irrigidirono e diventarono vitrei. Le tozze membra si immobilizzarono. Conan si rialzò barcollando, togliendosi dagli occhi il sudore e il sangue. Il sangue gocciolava anche dal pugnale e dalle dita e gli scendeva rivoli sulle cosce, le braccia e il petto. Murilo lo afferrò per sostenerlo, ma il barbaro lo allontanò con impazienza. «Quando non potrò più stare in piedi da solo, allora potrò anche morire!» biascicò con le labbra rigide. «Ma accetterei un boccale di vino!» Nabonidus stava fissando la figura immobile, come se non potesse credere ai propri occhi. Nero, peloso, ripugnante, il mostro giaceva in maniera grottesca tra i brandelli della toga scarlatta, più umano che bestiale, persino in quella posizione. La sua forma immota pareva qualcosa di triste, di dolente. Persino il cimmero lo avvertì, poiché mormorò ansimando. «Ho ucciso un uomo, non una bestia, questa notte. Lo conterò tra i grandi guerrieri di cui ha spinto l'anima nel buio, e le mie donne canteranno di lui.» Nabonidus si chinò e afferrò un mazzo di chiavi appese a una catena d'oro. Erano cadute dalla cintura dell'uomo scimmia durante la battaglia. Facendo cenno ai suoi compagni di seguirlo, li condusse verso una camera, aprì la porta e li fece entrare. Era illuminata come le altre. Il prete rosso prese da un tavolo un vassoio con del vino e riempì due coppe di cristallo. Mentre i suoi compagni si dissetavano, mormorò. «Che orribile notte! È quasi l'alba ormai! E adesso, amici miei?» «Facerò le ferite di Conan se andrete a prendermi delle bende», disse Murilo. E Nabonidus annuì, dirigendosi verso la porta che conduceva nel corridoio. Qualcosa nel modo in cui reclinava il capo spinse Murilo a osservarlo attentamente. Giunto alla porta, il prete rosso si girò d'improvviso. La sua faccia aveva subito una trasformazione. Gli occhi brillavano dell'antico fuoco, le labbra sorridevano silenziosamente. «Tutti i ladri allo stesso modo!» La voce risuonava dell'abituale ironia. «Ma non tutti sciocchi! Tu sei lo sciocco, Murilo!» «Che cosa intendete dire?» Il giovane aristocratico si mosse. «Indietro!» La voce di Nabonidus schioccò come una frusta. «Un altro passo e ti incenerisco!» Murilo si bloccò nel vedere che il prete rosso afferrava una spessa fune di velluto che pendeva tra le tende accanto alla porta. «Che tradimento è questo?» gridò Murilo. «Avevi giurato!» «Ho giurato di non raccontare al re una storiella che ti riguarda, ma non di rinunciare a occuparmene io stesso se se ne fosse presentata l'occasione. Credi che rinuncerò a una simile opportunità? In circostanze normali non avrei osato ucciderti personalmente per timore di una punizione reale, ma ora nessuno ne saprà niente. Finirete nelle vasche di acido insieme a Tak e a quegli sciocchi nazionalisti e nessuno lo verrà mai a sapere. Che magnifica notte questa per me! Ho perso alcuni valorosi servi, ma mi sono sbarazzato di molti pericolosi nemici. Sta indietro! Sono fuori della stanza e non puoi raggiungermi prima che tiri questa corda e ti spedisca all'inferno! Questa volta non è il loto grigio, ma qualcosa di altrettanto efficace! Quasi tutte le camere della mia casa hanno una trappola! E così, Murilo, sciocco che non sei altro!» Troppo veloce perché l'occhio potesse cogliere il suo movimento, Conan afferrò uno sgabello e lo lanciò. Nabonidus urlò e tese istintivamente il braccio, ma non fece in tempo a ripararsi. L'oggetto si schiantò rumorosamente contro la sua fronte e il prete rosso cadde a terra. Intorno alla sua testa una pozza rossastra si allargò lentamente. «Dopotutto il suo sangue era rosso», grugnì Conan. Murilo si passò la mano sui capelli madidi di sudore. Tremando si appoggiò al tavolo, debole per la reazione emotiva. «È l'alba», disse. «Allontaniamoci di qui prima di cadere vittime di qualche altra trappola. Se riusciremo a scavalcare il muro esterno senza essere visti, non potranno collegarci all'accaduto di questa notte. Lascia che la polizia si arrangi a trovare la spiegazione». Lanciò un'occhiata al corpo del prete rosso che giaceva in un bagno di sangue e scrollò le spalle. Era lui lo sciocco, dopo tutto. Se non avesse continuato a parlare, sarebbe riuscito facilmente a prenderci in trappola. «Bene», disse tranquillamente il cimmero. «Si è avviato per la strada che tutti i ladri finiscono per percorrere prima o poi. Mi piacerebbe saccheggiare la casa, ma suppongo che faremo meglio ad andarcene». Mentre emergevano nel pallore del giardino, imbiancato dall'alba, Murilo disse: «Il prete rosso è sparito nel buio, e io ho via libera nella città e non ho nulla da temere. Ma tu, c'è ancora quella faccenda del prete di Anu e...» «Sono stanco di questa città», fece il cimmero con una smorfia. «Hai parlato di un cavallo che mi aspettava alla taverna dei topi. Sono curioso di vedere quanto impiegherà a portarmi in un altro regno. Ci sono molte strade che voglio ancora percorrere prima di avviarmi su quella che Nabonidus ha imboccato questa notte». La Locanda della Tormenta è stata lieta di presentare Conan, gli intrusi a palazzo. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. E scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa.